English 24. Buongiorno da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa settimana torniamo a Sanremo, lo facciamo solo in senso figurato, perlomeno riascoltando un'intervista che ci ha concesso a Sanremo un personaggio straordinariamente affascinante. Non so se avete avuto occasione di vedere il festival, ebbene le coreografie che aprivano ogni serata questo festival di Sanremo erano di un coreografo americano, Daniel Esralo, un coreografo molto famoso negli Stati Uniti, ha fatto molte cose negli Stati Uniti e ce n'è anche parlato, ma gli abbiamo chiesto cosa pensa del Festival di Sanremo. È sempre interessante vederci attraverso gli occhi di una persona che ci vede da fuori. Ebbene, ecco cosa ha risposto Daniel Esralo. Cos'è intanto per lui il Festival di Sanremo? Sanremo is a unique experience. It's a festival like none other. I've done the Grammys, kind of understand the Grammys. I've done the Oscars, I understand the Oscars. I've done some other award shows in America. And I've seen what Spain has and what France has. Sanremo is unusual because for this one week, everything descends upon this little town and it creates this wild, magical festa, which is unlike anything else. And it's crazy for us who are trying to make it for television, because television's involved. It becomes this wild, somewhat political event of who should go where and what's interesting and how did the share go when he spoke and what happened when you made a dance and I love it. Allora Giulia, lui dice intanto che Sanremo è un'esperienza unica. Sì, e usa questa parola che sappiamo che è unico, si può dire anche in altri modi, ma lui usa la parola unique, che non è così diffusa e dà proprio l'idea, forse perché ha questa, anche questo spelling più francese che inglese, si scrive infatti U-N-I-Q-U-E, ha più questa idea di unicità, per l'appunto. Io in questi giorni sto seguendo la moda e c'è per esempio anche una collezione di Alessandra Facchinetti, che in qualche modo è legata a Sanremo perché suo papà è Roby Facchinetti, e questa collezione si chiama Uniqueness. Tutto torna, insomma. Lo abbiamo detto, lui ha fatto tante cose negli Stati Uniti e le ha anche elencate. Sì, e dice, vabbè, naturalmente lui è stato invitato dal Festival di Sanremo, quindi mi sembra anche giusto che non ne parli assolutamente male, anzi ne parli bene, però ci dice proprio che there's no festival like Sanremo, è proprio unico tra tutte le esperienze che ha fatto, e dice ne ho fatte di esperienze, perché I've done the Grammys, i famosi Grammy Awards, quelli della televisione, I kind of understand the Grammys, e quindi capisco il meccanismo dei Grammys. I've done the Oscars and I understand the Oscars. I've done some other awards shows in America. Sapete che ce ne sono tanti, con tutti i famosi red carpet. Insomma, lui non ha lavorato solo per il Festival di Sanremo, quindi può fare dei confronti e trae la conclusione che Sanremo is unique. Eh sì, perché effettivamente lui si è reso conto di questa cosa che capiscono tutti coloro che provano questa esperienza, che per una settimana, per quella settimana, cosa succede? E dice usa un verbo che è quasi arcaico, dice everything descends upon this little town, quindi tutti scendono letteralmente su questa piccola città, che poi naturalmente è piccola soprattutto per gli standard americani, ma è una, diciamo, una media città italiana. Sanremo non è poi così piccola, non è un villaggetto, però insomma lui la chiama little town, piccolo paese, e ripete ancora una volta it's unlike anything else, non è, sì, letteralmente è come niente altro, cioè non assomiglia a nient'altro. E poi usa questa parola wild, che è proprio un evento un po' pazzo, perché wild vuol dire selvaggio ma anche pazzo, e dice perché si rende conto, anche da straniero, anche probabilmente non capendo, ma forse meglio, tutto quello che viene detto in italiano, che si capisce che è anche un political event, che è un evento politico, pur essendo un festival della canzone. Capite che questo a uno straniero può sembrare, per l'appunto, wild. A me viene in mente quando Sofia Coppola ha ambientato le immagini del suo Somewhere in una scena di immaginari telegatti. Lo sguardo che gli stranieri possono avere sulla televisione italiana. E quindi ho chiesto proprio a Daniel Esralo cosa pensa della televisione italiana. Ecco cosa ha risposto. I happen to think Italian television is very wild and I like it very much. I enjoy it much more than American television. Without a doubt. Because I think it's crazy. But I love that. What is crazy? Crazy is not stupid. Crazy is intelligent. You have to be very intelligent to be crazy. You have to have a very high level of intelligence to understand how to be absolutely mad. And I think that's what's interesting. Italian television is crazy. But it's also, it also doesn't take itself too seriously. There's times. I mean, this Sanremo Festival, it would never happen in America. You would never have this many hosts coming at a time. Never in a million years. They would never do it. They'd never do that. People are more uptight, more precise. Sometimes it's good to be precise. Sometimes it's really a drag. I mean, the Grammys sometimes are good. Sometimes they're just as boring. They're terrible. Aveva definito il Festival di Sanremo wild, e wild è anche la televisione italiana. Sì, lui dice, I happen to think, che in italiano dovremmo dire, sì, dal caso che io pensi. Cioè si rende conto lui stesso mentre sta per dirlo, che sta per dire una cosa strana, e quindi usa questa espressione, sì, dal caso che io pensi, che Italian television is very wild. Oh, però wild, quando lo intendiamo appunto come pazzo, è nel senso anche di eccentrico, ma in senso positivo, non è come una cosa che appunto è talmente, talmente eccentrica che c'è qualche cosa di eccezionale, di riconoscibile come una cosa positiva in questo. E qui non so che televisione italiana ha visto lui oltre a Sanremo. Però gli piace, tutto sommato dice che appunto è crazy, è wild, però I love that, mi piace. Sì, e non ha dubbi, dice without a doubt. Quindi proprio gli piace tutto quello che ha visto, è veramente evidentemente visto, e qui dice una cosa che magari fosse così secondo me, però lui dice è talmente crazy che it requires a very high level of intelligence. Effettivamente a volte per fare le cose davvero bizzarre, anche tu hai citato prima Somewhere, beh, quello è un film veramente bizzarro e Sofia Coppola è sicuramente una intelligent woman. Ecco, io non so se la nostra televisione è così crazy e così wild perché la fanno o la pensano o la mettono in pratica very intelligent people, ma Daniel Ezrolo pensa così. Sì, devo dire che effettivamente noi italiani abbiamo anche il torto di pensare che sempre chiunque sia meglio di noi. Lui invece trova del buono anche in quello che noi buttiamo via, e anzi lui, parlando dei Grammys, dice non pensiate che è tutto favoloso quello che arriva dall'America, anzi. Sì, lui dice che per esempio questa conduzione, questa pluriconduzione, quindi this many hosts, host è l'ospite ma quindi il conduttore in linguaggio televisivo, beh, it would never happen, never in a million years. Noi in italiano non diciamo non succederebbe in un milione di anni, non so, noi diremmo magari non succederebbe mai, oppure ma neanche per sogno. Ecco, in inglese invece never in a million years, nemmeno in un milione di anni potrebbe succedere questa cosa. E poi sono tutti more uptight i conduttori, molto più sempre molto più seriosi. Poi magari c'è il comico che fa il suo lavoro di comico agli Oscar, lo sappiamo, però in generale, dice lui, non è come Sanremo o ai Grammys, che a volte sono bellissimi, però a volte lo riconosce, sanno anche essere piuttosto noiosi. They are boring, e più che boring, they are terrible, terrible to watch, probabilmente. Ma com'è lavorare con gli italiani? Come sono questi italiani? Ecco cosa ci ha risposto. Italians have a way of improvising. I mean, it's a grand statement, it's a very gross statement, but because Italians have a way of improvising in general, the tendency is to say we'll get it done, and not always to make sure everything. Sometimes when you make sure everything, you turn to German, and that's not very fun. So there's this balance, and it's a balance of a magnanimous person who knows how to be very welcoming but also very intense when they need it. And that would help the system, I think. Someone who really, you know, Italians have had it at times, very strong leaders who have been very magnanimous with the people and very loved, yet also very strict. If necessary to be strict. I mean, if it's just chaos, sometimes chaos can be too difficult. It works well. It seems to work well. The share went up yesterday, so I know, you know, up one day, down the next. It's like the stock market. Allora Giulia, cosa ha detto Daniel Ezrolo? Come sono questi italiani, perlomeno quelli con cui lui lavora? Effettivamente questa è una cosa abbastanza ricorrente quando si chiede agli stranieri che cosa ha di strano è lavorare con gli italiani, e dice c'è questo way of improvising, questo modo di improvvisare, ma in senso positivo, cioè non nel senso di persone che siccome non sanno cosa fare improvvisano, no, è proprio una cosa di we'll get it done, lo faremo, ce la faremo anche se apparentemente è impossibile. È davvero davvero una specie di dogma che ritorna. Io lo sento sempre quando parlo con i designer che lavorano per il Salone del Mobile, con le aziende italiane, dicono che solo con gli italiani anche le cose impossibili si sentono rispondere "We'll get it done". A un certo punto lui addirittura fa un paragone piuttosto così, dice: se fossero tutti più precisi diventerebbero tedeschi e non sarebbe così divertente, dice, da americano. Sì, però naturalmente that's not very fun, non sarebbe poi così divertente. Qualcosa però fa funzionare tutto il sistema, perché come lui stesso diceva, lo abbiamo incontrato tra una serata e l'altra del Festival di Sanremo, insomma alla fine se i programmi vengono fatti hanno anche un certo successo, qualcosa che li fa funzionare c'è. Sì, lui dice che comunque troviamo il modo have this balance, troviamo il modo di bilanciare un po' tutto. E poi però tutto sommato dice, insomma, è capitato anche a voi di avere ogni tanto qualcuno vi imponga la disciplina, perché chaos could be very difficult, perché il caos alla fine stanca. Però perlomeno il giorno in cui l'abbiamo intervistato lo Cher si era alzato al Festival di Sanremo, quel giorno era particolarmente contento Daniel Esralo, col quale abbiamo chiacchierato al Festival di Sanremo. Si conclude qua però il nostro appuntamento con English 24 di oggi. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro giornale in edicola, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.